Letture di Radio 24. Nel 1972 un ragazzo di 20 anni si trova a dover trasportare nel bagagliaio della sua giardinetta un carico piuttosto ingombrante, il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Come si era arrivati ad una missione che, almeno in apparenza, sembrava alquanto imprudente? L'incredibile avventura ha inizio 4 anni prima. Nel 1968 il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, allora rilegato in un unico grande volume, venne portato da Milano all'abbazia di Grottaferrata presso Roma per essere smontato, restaurato e rilegato di nuovo. Non conosciamo le modalità del trasporto d'andata, ma possiamo intuire che avvenne nella massima discrezione e in forma privata, cioè senza ricorrere a ditte di trasporti, mezzi speciali o scorte armate. Quando nel 1972 il restauro venne completato, la Biblioteca Ambrosiana dovette pensare al viaggio di ritorno. Non era cosa da poco, perché se nel viaggio d'andata gli oltre 1000 fogli del libro si trovavano incollati sopra un unico libro, dopo il restauro a Grottaferrata i fogli di Leonardo erano stati separati e rimontati in 12 imponenti volumi, rilegati in pelle. Il carico, insomma, s'era fatto davvero ingombrante. A organizzare il viaggio di rientro vennero chiamati 2 fidatissimi parroci milanesi, Don Giuseppe Lattanzio e Don Luigi Michelini, i quali optarono, ancora una volta, per una soluzione strettamente privata. Nonostante l'ingombro del carico, si pensò di portare a Milano il Codice Atlantico di nuovo in incognito, usando una comune automobile. Ci voleva però un mezzo abbastanza capiente, soprattutto dotato di ampio bagagliaio. Un'auto familiare sarebbe stata l'ideale. Don Michelini si mosse e trovò la soluzione. Chiese a un suo parrocchiano di fiducia, l'ingegner Franco Pavesi, di mettere a disposizione per una missione segreta la sua Peugeot 504 giardinetta. L'ingegnere non solo accettò di prestare l'auto, ma indicò come abile autista e all'occorrenza ai tante guardaspalle il suo giovane nipote ventenne, Arturo Aletti, ovvero il protagonista della nostra storia. «Sì, era la primavera del 1972», ricorda Aletti. Mio zio Franco venne a chiedermi di guidare la sua Peugeot giardinetta per accompagnare a Roma 2 prelati che dovevano prelevare qualcosa di molto importante e di riportarli il giorno dopo a Milano. Mi disse di portare con me un abito scuro, una camicia bianca e una cravatta. Non aggiunse altro. Io, senza far domande, accettai all'istante. Allora ero sempre pronto ad andare in giro e, nonostante dovessi scarrozzarmi 2 preti, mi andava l'idea di poter dormire a casa di mia nonna Maria Pavesi, che viveva in un mitico superattico nel centro di Roma, e soprattutto di poter trascorrere una serata di divertimento al Piper, la discoteca allora più in voga della capitale. Dunque, col pensiero tutto rivolto al Piper, il giovane Aletti si mise senza indugio al volante. Partimmo una mattina di maggio del 1972. Durante il viaggio in autostrada, io mi annoiai a morte perché i 2 sacerdoti non fecero altro che citare e commentare con eccezionale puntigliosità ogni singolo monastero, pieve e luogo sacro che potessero scorgere lungo il percorso. Solo quando chiesi che cosa stavamo andando a prendere di così importante a Roma, i 2 si fecero improvvisamente vaghi e delusivi, sviando il discorso e chiedendomi invece se avessi portato con me l'abito blu e la cravatta nera, come raccomandato dallo zio. Io li rassicurai. Nel tardo pomeriggio il terzetto giunse a Roma. Don Lattanzio e Don Michelini si fecero lasciare dietro Santa Maria Maggiore, dove esisteva un convitto di preti lombardi, e raccomandarono al giovane Aletti di passare a prenderli l'indomani mattina, alle 8 precise. Finalmente libero, andai a casa di mia nonna Maria, dove le feci compagnia fino al calar della sera. Quindi mi preparai per la nottata romana con destinazione finale al Piper. Naturalmente, feci le 3 del mattino. Il risveglio fu ovviamente un po' difficoltoso. Beh, sì, mi svegliai con un bel cerchio alla testa. Comunque alle 8 precise, nel completo blu, mi presentai con la Peugeot giardinetta a prelevare i 2 prelati, che mi svelarono la nostra prossima meta, il Vaticano. La Peugeot giardinetta entrò dalla porta di Sant'Anna. A questo punto, e solo questo punto, i 2 sacerdoti spiegarono al giovane autista l'alta natura della loro missione. Mi dissero, con mia somma sorpresa, che saremmo andati da Papa Paolo VI, il quale ci avrebbe ricevuti nei suoi appartamenti per un'udienza privata, organizzata per salutare il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, che era stato sottoposto a un importante restauro nel monastero di Grottaferrata e che ora andava riportato a Milano. Confesso che io allora ignoravo che cosa fosse davvero questo Codice Atlantico, ma strabiliai al sentir pronunciare il nome di Leonardo. Aletti cadde in preda all'agitazione. chiese ai due sacerdoti se ritenessero sicuro portare in macchina a Milano un capolavoro simile, ma i sacerdoti lo tranquillizzarono dicendo che la sicurezza del codice era garantita dal fatto che sarebbe giunto a Milano totalmente in incognito. Io non mi tranquillizzai affatto. Don Lattanzio e Don Michelini non sapevano che avevo fatto le ore piccole al Piper e soprattutto non sapevano che mia nonna Maria, ovviamente ignara dell'alto trasporto, mi aveva caricato in macchina un grosso aspirapolvere guasto da far riparare a Milano. In Vaticano, la Peugeot giardinetta parcheggiò dapprima nei pressi dello IOR. I due preti, accompagnati da Aletti, varcarono la porta dell'istituto e dopo qualche minuto si presentò niente meno che Monsignor Marcinkus. Espletate alcune formalità, forse i pagamenti del restauro, il terzetto uscì dallo IOR e si diresse verso il Palazzo Pontificio. L'attesa dell'arrivo di Sua Santità, ricorda Aletti, fu abbastanza lunga, ma avvenne in una splendida sala dove su alcuni tavoli erano stati sistemati dei grandi volumi rilegati in pelle. Il codice atlantico era lì. Lo sfogliai e colsi l'interessantissima presenza di un anziano e carismatico frate con barba bianca che scoprì essere l'archimandrita di Grottaferrata, il responsabile dei lavori di restauro. L'attesa venne riempita da interessanti spiegazioni. Oltre a sfogliare pagine e pagine di disegni originali di Leonardo, Aletti venne estasiato da incredibili racconti su come erano ridotti i disegni prima del restauro e su come fosse stato possibile risanarli e recuperarli. Poi apparve Sua Santità, un'esile figura ammantata di bianco che mi colpì ed emozionò moltissimo, nonostante la mia natura di giovane un po' anticlericale. Quando il Papa fu davanti a me, mi sprofondai in un inchino, cosa che fino a un attimo prima avevo pensato di non fare, ma fu davvero inevitabile. Dopo le strette di mano e la benedizione pontificia, Don Lattanzio, Don Michelini e il giovane autista Aletti si congedarono dal Papa. I 12 volumi di Leonardo vennero caricati nel grande bagagliaio della Peugeot giardinetta e accanto ad essi venne trovato posto anche per l'aspirapolvere rotto della nonna, che alla fine servì per mimetizzare meglio il preziosissimo carico. La macchina partì alla volta di Milano. Durante il viaggio chiesi ai due sacerdoti se per caso avessero previsto di farci scortare da un'auto civetta per questioni di sicurezza, ma loro mi risposero che avevano ritenuto meglio di fare una cosa che desse nell'occhio il meno possibile. La sola precauzione prevista era che uno di noi, a turno, sostasse sempre nella Peugeot a guardia del carico, soprattutto nel caso di soste fisiologiche negli autogrill dell'autostrada. Nel tardo pomeriggio, la Peugeot 504 giardinetta entrò a marcia indietro nel cortile dell'Ambrosiana. I volumi di Leonardo vennero scaricati e finirono nei forzieri climatizzati della biblioteca, dai quali oggi fuoriescono a rotazione per le mostre. Sul destino dell'aspirapolvere rotto, invece, non si hanno più notizie. Arturo Aletti sorride e dopo 40 anni ancora si emoziona. Le confesso che dopo la mia famiglia e i miei figli, questo trasporto speciale è stata la cosa più importante della mia vita. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Marco Carminati dal settimanale Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Ti segue ovunque tu vada e non ti abbandona mai. È il canone Rai, la prova ineluttabile dell'esistenza di Dio, scrive Marco Belpoliti sulla Stampa. Una delle prove dell'esistenza di Dio è fornita dal canone TV. Ogni volta che ciascuno di noi cambia di indirizzo, muta la propria residenza, una delle prime comunicazioni in arrivo è immancabilmente la richiesta del canone televisivo. In modo implacabile giunge una lettera in cui si specifica che non risulta versata dal destinatario la quota dell'abbonamento dell'anno in corso e si invita a farlo entro breve. L'invio delle lettere, che Borges avrebbe sicuramente assegnato a una potenza divina, oscura, insondabile, lontana e insieme vicinissima, garantisce che qualche entità c'è e ci vede. Ma cosa vede? Che abbiamo cambiato residenza? Che non paghiamo il canone? Che siamo degli immancabili debitori o evasori? Tutto questo, ma anche altro. Per quanto da 10 anni non guardi più la televisione, non possegga un apparecchio televisivo e non abbia acquistato il decoder per intercettare il segnale del digitale terrestre, ricevo immancabilmente il bollettino annuale di abbonamento alla TV. All'inizio ho tentato di sottrarmi, ho scritto lettere, spedito missive, inviato raccomandate in cui spiegavo che non ero un telespettatore, perciò non dovevo o volevo pagare il canone. Tuttavia le lettere di ingiunzione continuavano ad arrivare. Stremato, ho calcolato che era meno faticoso pagare il canone e finirla lì. Di recente ho cambiato casa e al nuovo indirizzo è arrivata la richiesta. Ho fatto presente che pagavo già il canone con un altro indirizzo e secondo le regole si paga un solo abbonamento per nucleo familiare. Equitalia implacabile ha emesso una cartella esattoriale con minacce di sequestro. Ho scritto alla RAI inviando fotocopia del versamento senza successo. La cartella avanzava inesorabilmente. Inoltre, il canone è intercettato da tre entità imperscrutabili: RAI, Agenzia delle Entrate, Equitalia. Mi sono recato agli uffici di quest'ultima e, dopo una fila di 2 ore, ho bloccato la cartella del canone per il 2010, già pagato. Al vecchio indirizzo, intanto, era arrivata la richiesta del canone per il 2011. L'ho pagato per non perdere altro tempo ed energie, ma l'indirizzo era ulteriormente errato, ma non il mio codice fiscale. Perciò al nuovo indirizzo è arrivata una nuova richiesta con minaccia di emissione di cartella esattoriale. Sono da capo. Dio c'è, come era scritto un tempo sui muri, lungo le strade di grande traffico. E il canone è il suo profeta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Belpoliti, L'inesorabilità del canone, dalla stampa del 27 giugno.